Radio 24 Reportage. La crisi economica non spegne la solidarietà di Atene per i profughi, di Valeria De Rosa. In questo scampolo d'inverno caldo, atipico anche in questo angolo di Mediterraneo, la capitale greca assiste e affronta un'altra crisi, un'altra emergenza vissuta senza fare troppe domande e soprattutto senza troppe recriminazioni, almeno per le strade. E mentre l'esecutivo di Alexis Tsipras cerca di non farsi emarginare, appoggiando l'accordo con la Turchia che scatta proprio oggi, Atene, dove vive la metà dei greci, reagisce, risponde e si rimbocca le maniche. Perché l'accordo vale per chi vorrebbe lasciare la Turchia, ma non per chi in Grecia è già arrivato. In Victoria Square, the most of these people that they wait there, about 400-500 people, they believe in some people that they are. Panayotis, che nella vita fa il tassista, mi racconta cosa succede a Victoria Square. Per mesi le immagini delle tende montate nella piazza sono state rilanciate dai social network. A Victoria arrivano soprattutto afghani, pakistani, iraniani. Non scappano dalla guerra, ma da condizioni economiche disperate o da persecuzioni religiose o politiche. Sono quelli che non vogliono essere schedati perché altrimenti c'è il rimpatrio. Victoria è un punto di ritrovo, capire dove si può dormire, dove trovare qualcosa da mangiare e soprattutto dove stabilire un contatto con chi li può traghettare in Europa. I trafficanti che a Victoria hanno il loro ufficio si sono fregati le mani quando hanno saputo della chiusura della rotta balcanica. Più affari, più soldi. I trafficanti di Victoria sono afghani e pakistani, anche loro. Perché chi ti sembra di conoscere, chi viene dal tuo paese e parla la tua lingua, ispira più fiducia. And we will not become murderers. We have economical crisis, but we will not become murderers to use them or to kill them in the sea by pushing them back. Non siamo assassini, mi dice Panayotis. Abbiamo tanti problemi, la crisi economica, tante persone che riescono a malapena a sopravvivere, ma non siamo gente che sfrutta i migranti. Comprendiamo queste persone e non faremo profitti sulla loro pelle, non li ammazzeremo rigettandoli in mare. A volte arriva la polizia a Victoria Square e sgombera tutti. Transenna la piazza, che torna a essere un piccolo parco per qualche giorno. A piedi, un quarto d'ora e si arriva a Sintagma, centro città. Un calcolo approssimativo dice che al momento in Grecia ci sono tra i 40 e i 50.000 migranti. Le condizioni sono precarie. Al Pireo, il porto di Atene, ci sono forse 3-4.000 persone. I siriani sono al terminal passeggeri, ma sono in troppi e le tende sono state montate anche sotto le tettoie all'esterno. Una fila di bagni chimici, alcuni container con le provviste, una scritta «Welcome refugees to Piraeus» e un bambino che si accuccia su una busta. Oggi questo è il suo bagno. Poco più in là, in un edificio abbandonato e fatiscente, ci sono gli afghani. Certo hanno un tetto sulla testa, ma quando Mohamed, che non parla una parola di inglese, mi accompagna dentro, davanti ai miei occhi si apre una distesa di tende e materassini. Fili che vanno da una colonna all'altra dove stendere i panni o i teli per ripararsi dagli sguardi altrui e un odore pungente mi arriva in gola. Due bagni in muratura e la solita schiera di bagni chimici all'esterno. Sergio è un italiano, è qui con la Remar, una fondazione spagnola. Qui dentro, in questo edificio qui, dovrebbero essere sui 300 persone più o meno. E sono tutti afghani? Sì, tutti Afghanistan. Ma io credo che li abbiano divisi per fare una selezione, insomma, diciamola così. Per fare una selezione da chi realmente è venuto qua perché sta scappando dalla guerra a chi invece è un emigrato economico. Doccia non ne hanno. Io ho sentito adesso che stanno arrangiando il sistema per farli andare a farsi una doccia nella barca che c'è parcheggiata qua davanti, perché questa l'ha messa qui per coprire un po' la visuale. I greci sono così attivi da un punto di vista di solidarietà? Sì, no, per quello noi fino adesso, come negli altri posti, noi dobbiamo, come Remar, dobbiamo comprare alimenti. Qui ancora non abbiamo comprato niente, perché portano alimenti, portano giocattoli, ci hanno fatto una donazione di tavolini piccolini per i bambini, di pennarelli, di acqua. Per quello, anzi, da qui partono alimenti per gli altri campi addirittura. Quindi quello che è Piraeus, come abitanti di Piraeus, c'è un sostegno che è tremendo proprio. Livello alimentare è una cosa tremenda. Il sabato è un andare e vieni di macchine che portano alimenti, fanno loro panini, fanno loro da mangiare, i ristoranti stanno collaborando, è una cosa tremenda proprio. Sì, da quel punto di vista lì, guarda, ci portano tonnellate di brioche che le vanno a comprare e le portano, scatoloni, è una cosa tremenda proprio, sì. Viene qui lo stadio dell'Olympiakos addirittura, danno a mangiare tutti i giorni, è una cosa sì spettacolare da quel punto di vista lì, veramente. Questa è la Grecia, questi sono quei cittadini europei a cui l'Europa sta facendo pagare a caro prezzo il salvataggio economico. Un paese contraddittorio dove i mezzi pubblici sono considerati un servizio gratuito, dove si crede ancora in uno Stato fortemente assistenziale, ma dove nessuno si volta dall'altra parte. Al vecchio aeroporto di Ellenico, a Glifada, è stato allestito un altro campo, un campo ufficiale dove i giornalisti sono ammessi ma non possono filmare, fotografare, registrare. La responsabile, Kara Stagu, è una funzionaria del ministero, ma è la sola. Intorno a lei, solo volontari. Qui ci sono 1.400 persone, per lo più afghani, mi dice Kara. Mi porta nel magazzino per farmi vedere quanti succhi, quante merende, pasta, acqua, cibo in scatola. Tutto portato dagli ateniesi. Al sabato arrivano anche donne anziane e portano piatti cucinati in casa. All'apertura del campo ho avuto bisogno di provviste di cibo, mi dice Kara. In 36 ore ne sono arrivate 40 tonnellate e 300 volontari pronti a fare qualsiasi cosa. Fuori la solita fila di bagni chimici e muri scrostati. Lo scalo ormai abbandonato cade a pezzi. Fortunately, we have this climate of solidarity in Greece. The only hope, I think, and also the best hope in Greece, it is this climate of solidarity. Fortunatamente c'è un clima di forte solidarietà, la sola e più grande speranza della Grecia. A parlare, Yonus Mohammadi, presidente del Greek Forum of Refugees. Avevo paura che la gente fosse disponibile e solidale solo all'inizio, perché convinta che queste persone sarebbero arrivate e poi subito ripartite. Ma non è stato così. A volte non riusciamo ad aprire la porta dell'ufficio per quante donazioni abbiamo. Forse il governo sta sfruttando questa immensa solidarietà, ma io dico per fortuna che c'è tutta questa gente che vuole aiutare. È la nostra unica speranza in questo momento. Se fosse così in tutta Europa non ci sarebbero problemi. And just the name of European Union, it is good that European Union we have. Ad Atene quasi ogni fine settimana si organizzano raccolte. Il passaparola viaggia su Facebook. Centinaia di persone animano Piazza Sintagma, portando quello che possono. Arrivano con buste, con scatoloni, tante cose comprate e possono permetterselo a stento. Non pensavo mai che la sinora che gremisse l'Europa nel 1989. Non posso credere che dopo aver abbattuto i muri negli anni Ottanta, adesso l'Europa li stia rialzando. Il vice ministro delle finanze, Trifon Alexiadis, ha lo sguardo serio, quasi rassegnato. Da cristiano, ortodosso, non posso credere che stiamo trattando così queste persone. Gli chiedo se è possibile fare una stima di quanto la Grecia ha speso per la crisi dei rifugiati. 1 miliardo, mi dice, solo l'anno passato, soprattutto per il pattugliamento nelle acque che costeggiano le isole. La cifra forse è un po' gonfiata, ma non lontana dalla realtà. Se anche il presidente della Banca Centrale Greca, Yanis Sturnaras, in rotta di collisione con Tsipras, ha parlato di una spesa superiore ai 600 milioni di euro. Da Bruxelles ne sono arrivati solo 28, fondi di emergenza. Ne dovrebbero arrivare poco meno di 500 da qui al 2020, secondo l'ultima relazione della Commissione licenziata a gennaio. Questa è la Grecia, costretta a dire sì a un accordo con la Turchia che prevede aiuti per circa 6 miliardi se Ankara saprà bloccare le partenze dalle proprie coste e gestire i campi profughi. Solidarity is not a blank check to, you know, I pay and you get paid, you know. It has to be as they say, freedom comes with responsibility. So la solidarietà non è un assegno in bianco, mi dice il responsabile economico degli industriali ellenici, Michael Massourakis. È necessario comprendere anche il punto di vista degli altri. Quello che noi percepiamo come un vuoto di solidarietà da parte degli stati nord europei, da loro può essere interpretato come un modo per prenderci gioco di loro. Questo vale per la crisi economica e anche per la crisi dei rifugiati. Una volta i migranti venivano da voi, in Italia, poi hanno smesso. Tsipras ha promesso loro accoglienza, ma ora posso capire chi non vuole accoglierne più di quanti possa sostenerne. I can understand the other guy's point of view that, you know, we don't want more than we can tolerate.